y hacerte tu day. Mi manca amor, ok, o el micro y mano. Canto a su mío, ad albano, escribo, mi inspiro. Al mío un grande mito, piango mi guardo, vado in giro come un randaggio. Rimo sempre foglio, chiudo la piro. Cerco un vecchio amico, ma questa malinconia diventi forma. Yeah, utopia. Ti amo. Yesterday, today, non ci sei ok. Faccio calci come lì in uno dei suoi film. Non sono Ryan Lee, ma pagliaccio come Hit. Brutto come King, non famoso come Smith. Orgoglioso di Hit, sopra questo beat. A te questa hit.